penso sempre a te, sono convinto che tanto normale proprio non è. Non mi dire che non sono sincero, se quando mi guardi negli occhi rido. Ci penso sempre a te, sono convinto che credevo d'essere limoni e fragole, ma se poi osservi bene non so più ridere. Credevo d'essere uomo invincibile, uomo che quando più hai bisogno, uomo che non fa mai uno sbaglio. Tu che problemi non ne hai, che prendi quasi sempre i miei, e cerchi di colmarmi vuoti che mi uccidono, sai. A volte credo che vorrei tornare indietro a quando noi tenero niente noi. Dolce non sono vero, se quando ti guardo negli occhi tremo. Ci penso sempre a te, sono convinto che tanto normale proprio non è. E non mi dire che non sono sincero, se quando mi guardi negli occhi rido. Ci penso sempre a te, sono convinto che sei finalmente il padre.